Se mi seguite da qualche tempo, certamente ricorderete che sto come facendo un pochettino un cammino di conoscenza o di riscoperta della nostra fede, puntando tutto sul centro della nostra fede che è Gesù. Ricorderete che abbiamo detto che la Chiesa condensa in un anno liturgico la vita di Gesù, a cominciare dal Santo Natale, all'Epifania, alla Pasqua, passione, morte e risurrezione di Gesù Cristo, continuando, come abbiamo vissuto in questo periodo molto intenso di feste, l'ascensione di Gesù al cielo, la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo, la festa della Santa Trinità, la festa del Corpus Domini, ultimamente la festa del Sacro Cuore di Gesù. Oggi vorrei parlarvi di una creatura, dunque non siamo nella divinità, siamo nella creaturalità, che è stata la più vicina alla Trinità, ed è Maria Santissima, la Madonna. Io non so come voi conoscete la Madonna, come la pregate. Io ho incontrato nel mondo diverse persone che snobbano, compreso delle persone consacrate, che snobbano la figura di Maria, forse perché l'hanno vista pregata, amata da alcune persone anziane, da alcune persone che magari hanno anche esagerato, sbagliando, l'importanza di Maria. È Dio la nostra fede, è Dio il nostro Dio. E tuttavia oggi vorrei come dirvi che Maria occupa un posto speciale proprio nel rapporto con la Trinità. Riguardo a Dio Padre, Maria è, come tutti noi, figlia, creatura, ma è una creatura specialissima. È l'unica creatura concepita, nata e vissuta senza peccato, l'Immacolata, l'unica creatura. E perché Dio si è creato una creatura così? Perché fosse la degna abitazione del suo Figlio divino. In previsione di quanto avrebbe vissuto nei confronti di Gesù, Dio l'ha creata così. Io oggi corro via, ma spero ci sarà tempo durante questi mesi, questi anni, di approfondire poi vari particolari, perché è una realtà fortissima questa di Maria Immacolata. Dunque, rispetto al Dio Padre, lei è figlia, speciale ma figlia. Rispetto a Gesù, lei è madre. Capite il salto? È madre di Gesù che, essendo vero Dio e vero uomo, è chiamata madre di Dio. E anche qui non si finirebbe di approfondire il rapporto che ci fu tra Maria e Gesù. Io oggi corro via, vi accenno solamente questi flash, ma capite che se dovessimo solo approfondire questo rapporto tra Gesù e Maria, noi non dovremmo dimenticare tutta l'arte, la pittura, la scultura, la pietà, per esempio. Non dovremmo dimenticare la musica, l'Ave Maria, cantata, suonata, composta da tutti i principali geni musicali. E infine Maria, oltre che essere figlia del Padre, a essere madre del Figlio, è sposa dello Spirito Santo. Non vi sembri azzardata questa frase, non la invento io. L'hanno detta già centinaia e centinaia di anni fa coloro che sono chiamati i padri della Chiesa, i santi dei primi secoli. Perché nel credo si dice concepì per opera di Spirito Santo. E quindi è il suo misterioso, divino, celeste sposo. Per oggi mi basta avervi accennato questi flash, per comprendere come Maria occupa un posto nella fede dei cristiani che non è usurpato. Non finirei di parlarvi, per esempio, del ruolo che ha nella fede di tutte le nazioni. Non c'è nazione che non abbia un grande santuario dedicato a lei. Loreto per gli italiani, Fatima per i portoghesi, Nossa Signora Aparecida per i brasiliani, Lourdes per i francesi, Einsiedeln per gli svizzeri e così via. Addirittura la Cina, Luan, la Madonna di Luan, patrona della Cina. Io mi auguro di riuscire a parlarvi diverse altre volte di Maria, perché Maria è un autentico regalo della Trinità all'umanità. Basti pensare a tutte le apparizioni che lo Spirito Santo suscita nella Chiesa, le apparizioni di Maria e cosa sono i grandi santuari. Milioni di persone che vanno in questi grandi santuari dedicati a Maria e tornano convertiti. Basterebbe pensare, questo pochi lo conoscono, ma io grazie a Dio lo conosco molto bene, al compito che ha Maria nei confronti di Satana, peraltro già annunciato nella Bibbia. Lei ti schiaccerà la testa anche se tu cercherai di insidiarle il calcagno. Maria è di una potenza unica. Io lo sperimento quando faccio gli esorcismi. È di una potenza unica nei confronti del demone. Perché? Ma gli studiosi dicono che Satana sia schiacciato da Dio, ci sta. Ma che sia schiacciato e scacciato da una creatura, lui, Lucifero, che si riteneva il più grande, il più bello di tutte le creature angeliche, no, questo no. Ieri mattina ho fatto un esorcismo di 2 ore. Venerdì mattina, e siccome era il giorno del Sacro Cuore di Gesù, durante la preghiera, l'esorcismo è una preghiera, prolungata in questo caso per 2 ore, certe volte anche per 3, per 4 ore consecutive, ho invocato le litanie del Sacro Cuore di Gesù, e il demone muto. Alla fine ho recitato il Dio sia benedetto e il demone muto. Arrivando verso la fine ho detto benedetto il nome di Maria, Vergine Madre. Ah no, questo è troppo. Mi sembrava di averlo accanto e probabilmente era accanto Satana. Ah no, questo è troppo. Ci stava essere schiacciato dal cuore di Gesù, ma non da Maria. Ah no, questo è troppo. Che sia benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, che è la nostra difesa. col suo cuore immacolato. Ma ne parleremo perché diceva un proverbio latino: De Maria nunquam satis, cioè di Maria non si parla mai a sufficienza.